E cominciamo con quinto tipo, con la presentazione del libro. Mi alzo in piedi anch'io. No, in piedi era per presentare il festival, adesso mi siedo per presentare il libro. E sono due prossemiche diverse. Per presentare il festival devi essere un po' Daniele Piombi, no? Volevo fare questo siparietto. Ecco. Non si sa il nome. Ecco, dai. Appunto, come si pronuncia? Buonasera, ciao. È un trio fatto da Özgür Yalçın, che è un musicista turco bravissimo, che condivide con noi. Io sono il violinista e un contrabbassista, quindi è un trio basato sui pezzi del gruppo Karagümeş. Ok, beh, perfetto. È complicato. Non io avrei sputato, sicuramente da ferranese avrei sputato sull'ultima sillaba. Ecco, bene così, ci voleva. Ecco. Allora. Vedi che cambio ruolo, adesso sono il direttore di Collana, quindi sarà anche un po' più pensoso. Allora sì, un po' più pensoso, vai? Scusi. Ecco. Quinto tipo è una collana partita alla fine del 2014, sono nel novembre 2014, quindi sono 4 anni spaccati, con una idea che era quella di pubblicare narrazioni ibride. Ibride nel senso di incatalogabili, incasellabili, che ponessero delle difficoltà ai librai e ai bibliotecari, in quale scaffale li metti, sotto quale categorizzazione li metti. Sono saggistica e narrativa al tempo stesso, sono romanzo e anche no, sono narrazioni che stanno in una terra di nessuno. Una terra di nessuno che negli ultimi anni è stata esplorata da tanti autori e tante autrici, compresi noi Wuming, con dei libri come, non so, Point Lenana, Timira, Un viaggio che non promettiamo breve, prima ancora, ai tempi dei tempi, Asce di guerra, appunto, sono delle operazioni più che borderline, perché poi il border lo scavalcano, e li abbiamo chiamati oggetti narrativi non identificati, e la sigla in inglese sarebbe Unidentified Narrative Object, quindi è uno, e questo allude al fatto che ciascuno di questi libri fa genere a sé, in realtà è uno, è unico, cioè in realtà c'è un'aria di famiglia tra tutti, però ciascuna operazione ibrida a modo suo. Con Alegre abbiamo fatto questa scommessa di fare una collana che fosse anche un laboratorio sperimentale per questo tipo di narrazioni. Spesso ci sono autori e autrici che scrivono dei libri e le case editrici più blasonate, capita di meno oggi, ma è capitato tanto, dicessero ma non sapremmo bene dove collocarlo, no? Perché appunto sono degli oggetti strani, cioè, ma perché non togli la parte saggistica e lasci solo quella di romanzo? Ma perché non lasci solo la parte di inchiesta e non inserisci questi elementi di fiction? Ma perché ci sono delle parti in versi, perché non fai tutto in prosa? Cioè, come potevano dirlo anche al Dante della Vita Nova, no? Un prosimetro, quindi è la prosa che poi ogni tanto viene interrotta da dei componimenti in versi, no? E noi abbiamo detto, invece noi cerchiamo proprio questo tipo di libri qui, un'operazione azzardata, non commerciale, ecco, perché è spesso un assunto, se non si sa bene come incasellarli, i libri, cioè è anche appunto difficile spingerli, però ci sta dando delle soddisfazioni, diversi dei titoli sono andati in ristampa, alcuni anche più volte, e quindi l'esperimento continua, abbiamo già diversi nuovi libri in cantiere. Il penultimo libro uscito, cioè proprio con l'ultima infornata, è proprio La controfigura di Luigi, un libro. Giuliano Santoro, recensendolo sul Manifesto, ha detto che forse è il più ambizioso uscito per la collana come oggetto narrativo, è quello che più appunto pone tutta una serie di dilemmi, li ha posti nello scriverlo, li ha posti nell'editarlo, li pone nel leggerlo, tutta una serie di dilemmi, di rompicapi, di interrogativi etici su che cos'è il raccontare, su che cos'è il ricordare, su quanto possiamo appropriarci delle storie degli altri. Così. Adesso io veramente in poche parole faccio una mini sinossi e poi lascio la parola a Luigi. Questa è la storia di un confronto a distanza tra un vivo e un morto. il vivo è Dio narrante, che è una trasposizione, insomma, finzionale, velata dell'autore, e il morto è Eduardo Rocha Flores. Rocha Flores era un personaggio piuttosto squinternato, che è più di squadernato, no? Cioè, è scompaginato, è difficile da rimpaginare, da mettere insieme le varie pagine della sua vita. Un'esistenza che, se volessimo usare, appunto, non mi piace usare metafore psichiatriche, comunque un'esistenza schizoide, perché quando Luigi lo ha conosciuto esattamente 30 anni fa, nel 1988, durante le celebrazioni del nono centenario dell'Università di Bologna, Eduardo era qui a Bologna in una delegazione magiara, no? Perché c'erano questi incontri delle gioventù del mondo, e all'epoca lui era un dirigente dei giovani comunisti magiari, era un dirigente dell'organizzazione giovanile del Partito Socialista Operaio Ungherese. E poi però ha avuto una traiettoria veramente strana, perturbante, perché qualche anno dopo lo ritroviamo a capo di un battaglione di miliziani nazionalisti croati che combattono contro la Serbia nella guerra, appunto nella guerra jugoslava. Poi più tardi lo troviamo convertito all'Islam, lo troviamo vicino a Jobbik, che è l'ultradestra ungherese, quella che sta a destra di Orban, a destra del governo Orban. In tutto questo tempo continua a fare il poeta o il poetastro, appare, fa anche l'attore cinematografico, interpreta se stesso in un film a metà tra il documentario e il feature, insomma, anche lì è un oggetto ibrido che si chiama Chico. E poi a un certo punto, in una strana missione, una sorta di parodia dell'avventura finale del Che in Bolivia, lui, che è mezzo boliviano, lui è mezzo boliviano e mezzo ungherese, poi questi dettagli li tratterà meglio Luigi, va in Bolivia per partecipare, cioè, insomma, forse la causa, come ha detto Alfioneri su Carmilla nella recensione, è forse la causa più improbabile che possa esistere. L'indipendenza dei bassopiani della Bolivia, una lotta separatista per separare una delle regioni più ricche del paese dal resto della Bolivia, dove c'è il governo socialista bolivariano di Evo Morales. Quindi lui va là per, non so, cioè, sobillare la borghesia boliviana, e viene freddato in un albergo di Santa Cruz, che è poi la città d'origine della sua famiglia, del suo ramo boliviano. Viene freddato nel letto di un albergo assieme ad altri due suoi compagni, di cui uno un cantautore rumeno, no, transilvano, quindi veramente una compagnia di giro stranissima. Anche lì, lui, questo cantautore transilvano e un altro vengono freddati nei loro letti da un comando delle forze speciali boliviane, e poi post mortem viene accusato di aver ordito un complotto per uccidere Evo Morales. Quindi questo parte da giovane comunista ungherese, finisce morto in Bolivia, dove presuntamente stava cercando di uccidere Evo Morales. Quando Luigi viene a sapere retroattivamente, no, di tutta questa parabola che ha avuto la persona che lui aveva conosciuto nel 1988 e che era andato anche a visitare a Budapest durante un interrail, chiaramente rimane sgomento, sbigottito, comincia a fare inchiesta su questa vita incredibile di questo strano rosso-bruno, anche lì un oggetto rosso-bruno non identificato, perché è una traiettoria veramente strana e peculiare anche all'interno di quella, appunto, galassia di ricombinazioni, no? Tra estrema destra ed estrema sinistra e cose così, no? E quindi la ricerca delle motivazioni di Eduardo, di quale poteva essere la molla che lo ha spinto, diventa anche un auto-interrogarsi. Il narrante dice, praticamente mette continuamente a confronto la propria vita e quella di Eduardo, dice, non, due persone si sono incrociate una sera a Bologna, si sono riviste, si sono scritte anche, però le loro vite non potevano essere più divergenti di così, no? Uno diventa un insegnante a Bologna, ha famiglia, moglie, figli, ha una vita, insomma, scandita dal tran tran, e l'altro invece va in giro per il mondo ad appoggiare le cause più imprevedibili e improbabili, e alla fine ci rimane secco. questo confronto a distanza tra le due vite è la molla, è proprio è il movente del libro, è quello che lo spinge fino alla fine. Un libro letterariamente, secondo me, molto, molto ingaggiante, ma colpito molto fin dalle prime stesure, fin dalla, quando ho letto il racconto che era il nucleo iniziale intorno al quale è cresciuto il libro. Una scrittura che non, cioè, non fa sconti a se stessa, che è, anzi si tortura con, in un crescendo di appunti interrogativi, rimane sempre tra righe questa cosa: è giusto quello che sto scrivendo? È giusta la domanda che mi sto facendo? È giusto il modo in cui sto rispondendo a questa domanda? E però al tempo stesso c'è questa vita incredibile di Eduardo Rocha Flores, che dà anche una dimensione avventurosa. La tensione tra questi due poli rende questo libro, appunto, come diceva Giuliano Santoro, forse il più ambizioso finora pubblicato dalla collana. Quindi lascio la parola a Luigi Lollini, grazie. Ringrazio tutti quelli che sono qui presenti e tutte le persone che sono qui. Sono molto contento di poter presentare il mio libro in questo luogo, l'Area 61, un luogo che non frequento spesso ma che amo, e è un luogo che viene anche nominato nel libro, posso dire, quindi in una certa pagina del libro si nomina il Bug 61 e si nomina in occasione di una presentazione di un libro, quindi vabbè, non aggiungo altro. Non il personaggio. Sì, quindi visto che qui in questo luogo è stato presentato un libro da una persona che conosce l'Islam, che conosce il caso di Regeni, e visto che questi argomenti incrociano in qualche modo il tema, i molti temi del libro, all'interno della storia ricorre questo, insomma, c'è modo di collegare questo luogo anche alla storia e questo luogo e persone che ci sono state a presentare un libro. Diceva Vuminguno alcune cose sul libro, adesso io dico qualcosa, però mi piacerebbe che chi è presente e ha letto il libro avesse voglia, coraggio, iniziativa di intervenire, fare domande. Sarebbe bello questo, perché visto che il libro è stato pubblicato a maggio, qualcuno ha avuto modo già di leggerlo, quindi si può vivacizzare la presentazione grazie a un apporto del pubblico. Se no si arriva al punto in cui chi presenta il libro dice: c'è qualcuno che ha qualcosa da dire? No, non c'è più niente da dire. Tu lo dici prima? Lo dico prima, vi mettete nell'ordine delle idee e magari intervenite. E ha detto, ecco, il libro, nel libro ci sono molti spunti, perché quest'uomo che sta al centro della storia, Eduardo Rocha Flores, come avete visto, ha una vita romanzesca, che viene continuamente narrata e viene raccontata da un film, per esempio, in cui lui è protagonista, un film del 2001 di una regista ungherese che si chiama Ibolya Fekete, e in questo film piuttosto agiografico, in cui manca l'esito finale, insomma, della storia di questo individuo, quindi l'avvicinamento a Jobbik, partito di estrema destra, la morte, in questo libro si narra di questo personaggio. Si narra di questo personaggio in un romanzo di un autore francese molto importante, Hénard, nel romanzo Zona, quindi è un personaggio secondario, ma non troppo secondario, del romanzo Zona. In molti siti si parla di Eduardo Rocha Flores e lui stesso narra se stesso, perché è un giornalista, è un poeta, uno che si espone continuamente, ed è particolare questo suo esporsi a raccontarsi sempre, visto che lui, prima della caduta del muro, è uno che lavora per i servizi segreti ungheresi. E, o, è stato la guida di Carlos, il cosiddetto sciacallo, nel periodo in cui la guida turistica verrebbe da dire di Carlos, lo sciacallo, nel periodo in cui Carlos Ilich Ramirez Sanchez ha abitato in Ungheria. Edoardo Roger Flores, poliglotta, faceva, insomma, io un po' scherzando dico che lo portava in giro, e nel film si vede qualche scena su questo. Ecco, era una persona simpatica quando l'ho conosciuto, ambigua già e inquietante per certi versi, per alcune cose che diceva. Ma è uno che si raccontava continuamente, quindi è paradossale che un individuo che lavora come guardia di frontiera nello Stato ungherese, che millanta un ruolo nei servizi segreti, che in effetti c'è stato, e che poi ha combattuto nei Balcani, però in una formazione che compie delle azioni particolari, sporche, nelle retrovie, insomma, questa persona che per certi versi agisce nell'ombra, allo stesso tempo si espone continuamente, e quindi verrebbe da dire che è facile prevedere che una persona così vada a finire male, vada a finire morto, perché poco prima che fosse ucciso dalle truppe speciali della Bolivia, lui ha dato un'intervista su un sito venezuelano, insomma, si espone continuamente. E quindi ecco, ed è una persona che nel momento in cui si racconta dice bugie, continuamente simula e dissimula. Quindi nel momento in cui io ho pensato di raccontare di questo personaggio, mi sono posto il problema di raccontare la verità, per così dire, qualcosa di difficile da dire, su un personaggio che vive nella simulazione e nella dissimulazione. Quindi, e per questo genera delle difficoltà nella narrazione. E il narratore, che non è un esperto di niente, come le persone che vedete qui, cerca di capire di più di questo personaggio, e quindi si rivolge a persone che hanno conosciuto Edoardo o che conoscono gli scenari, i luoghi in cui Edoardo si muove. Tra queste persone c'è l'unico parente che è rimasto in vita di Edoardo Roger Flores, la sorella. E quindi quando Huming, uno diceva, Roberto diceva che ci sono delle reticenze, dei problemi nella narrazione, ci sono dei problemi perché si tratta di un personaggio che esiste nella vita reale. Io nel libro ho cambiato il nome di questa, della sorella di Edoardo Roger Flores, però tutto quello che ho messo nel libro è, come dicevo prima, è impastato con la menzogna, perché questo personaggio vive di menzogna, però non ho fatto fiction, non ho cercato di inventarmi dialoghi, situazioni, se non pochissimo, e questo l'ho denunciato in un racconto che poi ho pubblicato sul sito di Alegre. E quindi piccoli particolari, però tutta la prima parte della storia, quella in cui il narratore incontra il protagonista, insomma Edoardo Roger Flores, è quello che io vi potrei raccontare seduto a un bar. E anche qui c'è un problema, perché la memoria è fallibile, la memoria è imprecisa, la memoria a distanza di decenni condensa, sposta, e a volte tende a essere assolutoria, a volte... Ecco, quindi ci sono dei problemi anche conoscitivi che nel libro vengono sfiorati. E poi esistono problemi sull'identità di questi personaggi, l'identità di Edoardo, abbiamo visto, mutevole e cangiante, ma anche chi racconta la storia è una persona che si confronta con delle contraddizioni, con le contraddizioni della vita e anche di questo personaggio. Quindi Edoardo diventa una sorta di detonatore di tante contraddizioni che sono del nostro agire etico-politico, e questo ho cercato di renderlo narrazione. E la storia anche di un'amicizia che non c'è più, in un certo senso, perché Edoardo non lo posso definire un amico, Però ecco, c'è stato un momento in cui io e anche il narratore della storia, il personaggio, si incontrano, ci incontriamo con questo personaggio e poi questi cammini, queste storie, queste vicende si divergono. E non c'è nostalgia verso questa persona, se non per il fatto che comunque l'impressione, ho un'impressione di spreco, perché di perdita anche in un certo senso, non tanto dal punto di vista affettivo, ma dal punto di vista di potenzialità. E potenzialità che significano anche che una persona che poteva anche assomigliare vagamente, ma se leggete il libro non è così, a un comunista eretico, in realtà poi si rivela un avventuriero fascistoide, un rossobruno, quindi una figura di avversario, nemico, poi diciamo per dirla breve, un nemico. Quindi, però ecco, questa amicizia che non c'è più, questo divergere di vite è un'occasione per parlare di altre lontananze. Se è vero che io non ho, non sento, io che sto qui non sento una gran perdita in Edoardo, per aver perso Edoardo, però il libro parla di amicizia e di vite che divergono. E quindi Edoardo, questo personaggio, questo amico che diventa nemico, è può essere, è l'occasione per ripensare, per pensare altre amicizie, altri compagni separati dalla vita, dal fatto che si fanno scelte diverse, si fanno percorsi diversi, qualcuno abita lontano, qualcuno muore, qualcuno si suicida, insomma nel libro Edoardo, e anche Edoardo in un certo senso rivela questa pulsione, però ecco, il libro è un'occasione per riflettere anche sui rapporti umani, tra cui quello dell'amicizia. Posso continuare però? Sì, ho delle domande da fare. Una cosa molto forte, una linea di riflessione che c'è nel libro che mi ha colpito fin da, appunto, dalla prima stesura, e che viene esplicitata in alcuni momenti, come c'è un dialogo cruciale tra il narratore Alberto e sua moglie Luisa, no? Che è quello, no? Nel mondo di Edoardo, nella sua rappresentazione del mondo, delle relazioni sociali, non c'è la lotta, c'è solo la guerra, nel senso che non c'è il conflitto come lo intendiamo noi. Nel mondo di Edoardo ci sono solo maschi, intanto maschi guerrieri, non ci sono mai donne, non ci sono contraddizioni interne alla comunità, ci sono solo comunità viste come monolitiche che si scontrano tra loro, sono maschi guerrieri, possibilmente in mimetica, che sono organizzati in clan, tribù, etnie, razze, nazioni, e si scontrano lungo queste linee di faglia, lungo queste linee di frattura. Manca la contraddizione, manca la diversità interna alla società, mancano le classi, mancano i generi, ok? Manca tutto quello di cui si parlerà nell'appuntamento dopo, partendo dal libro di Angela Davis. Nel mondo di Edoardo questo non c'è. Lui parte come, appunto, comunista, chiamiamolo così, come burocrate funzionario di un apparato di Stato, diciamo di stalinismo temperato, nell'Ungheria di fine anni Ottanta, forse era il paese un po' più, diciamo, dove si godeva un po' più di libertà personale in quel blocco, per via insomma, di alcune riforme fatte dal presidente Janos Kadar, eccetera. No, però in buona sostanza lui si considera parte del mondo della sinistra, anche se con alcune sparate provocatorie, però la prima versione di Edoardo che tu conosci è uno che si definisce di sinistra, parte del movimento comunista internazionale, insomma in qualche modo, no? Anche se poi dice io sono per una monarchia costituzionale, perché fa il bastan contrario, provoca, eccetera, no? Dopo invece lui sostituisce a questo un sistema completamente diverso, una visione del mondo completamente diversa. In questo è molto poco rosso, è bruno e basta, no? In questo rossa è la provenienza, è il background familiare, il padre comunista, tutte queste cose qui, ma poi in questo rosso bruno di rosso rimane assolutamente poco. Ed è molto bello perché del dialogo a distanza, no? Dell'impossibile dialogo a distanza tra Alberto, coadiuvato da Luisa, e Edoardo, ogni tanto ci sono queste cose, no? Questo rivolgersi in apostrofe, diciamo così, al mondo di Edoardo, dire: noi cosa avremmo mai potuto dire a uno così? Noi con i nostri collettivi universitari, non so, i nostri scioperi, ogni tanto appunto le nostre mobilitazioni, i nostri centri sociali occupati, lotte dove raramente c'è un morto. Quella colpisce molto, no? Perché invece nel mondo di Edoardo c'è la guerra, ci sono i morti. Dice: noi invece nella nostra pratica della lotta sì, abbiamo dei caduti, ma raro, no? Che accade l'eccezione. Invece nel mondo è dato per scontato che si morirà, no? Nel mondo di Edoardo. E quindi c'è questa differenza tra conflitto e guerra, tra lotta e guerra, che poi è la stessa, appunto, cioè, che separa il vedere nel mondo con tradizioni di classe e di genere e vedere nel mondo invece solo scontri di identità. Sì. Allora, esistono diversi tipi di lotta e non necessariamente guerre per territori, in base a una ripartizione etnica, come quella guerra come la guerra che si svolge nello scenario balcanico, in cui Edoardo è un attore abbastanza importante. È abbastanza importante perché, se voi vi ricordate, il tizio che si è suicidato all'Aia per bevendo un... Ecco, Slobodan Pramjak era capo delle forze croate nella Slavonia, che è una regione della Croazia. Sotto di lui c'era Glavaš, e questo Glavaš era che comandava la zona di Osijek, dove ha agito Edoardo. Quindi questa gerarchia vede Edoardo subito dopo Glavaš. Pramjak si è suicidato durante il processo, poco quando è stato condannato là. E Glavaš è stato condannato a 10 anni di prigione, poi convertito a 8. Edoardo non è stato processato, ma è accusato dell'omicidio di almeno 3 giornalisti. Questo non mi soffermo per tornare alla questione. Quindi esistono guerre per territori in base a un criterio etnico, esistono lotte di classe e contraddizioni che attraversano chiunque di noi che è portatore di un minimo privilegio. E Edoardo non si pone questo problema, non si pone il problema delle proprie contraddizioni, vuole dirigere magari nel suo piccolo delle trasformazioni, ma non si pone problema delle proprie contraddizioni di classe, di genere e così via. Quindi è un ambiente di maschi, è un ambiente che nasce sotto il segno del nazionalismo. Io l'ho conosciuto in realtà mentre perorava la causa della minoranza ungherese in Romania. Quindi le prime parole che io ho sentito di Edoardo erano quelle di una dirigente socialista, che poi si dimostra non burocrate, scherzoso, barzellette, canti di lotta, i morti di Reggio Emilia, sapeva tutte le canzoni del repertorio delle canzoni di lotta italiane, raccontava barzellette, era simpatico, parlava con tutti, parlava 5 lingue. Però la prima volta che l'ho sentito parlare, parlava della minoranza ungherese in Romania. Ora, la Romania aveva un po' di problemi con il suo conducatore, con la sua Securitate, con i suoi apparati di sicurezza. I problemi esistevano per la minoranza ungherese, ma esistevano in generale per tutti coloro che in Romania si muovevano per la minima trasformazione sociale. Ecco, quindi l'ho conosciuto, però che perorava la causa di questa minoranza ungherese che si è creata in Romania perché l'Austro-Ungheria ha perso la prima guerra mondiale. Poi dopo questo aspetto che era presente in questo personaggio è diventato prioritario, diciamo così, però era già presente. E per quanto riguarda queste contraddizioni, ecco, lui non era un tizio, adesso noi immaginiamo un sovranista di adesso che sbraita contro gli immigrati, contro i musulmani. Ecco, quando Edoardo che si avvicina a Jobbik non è uno che scrive riguardo all'immigrazione, non è uno che sbraita contro i musulmani per il semplice motivo che è vice presidente di una delle due comunità musulmane dell'Ungheria. Quindi anche, certo, poi c'è stato un momento in cui Jobbik ha esasperato le sue posizioni razziste nei confronti dell'immigrazione, dei musulmani, mentre prima magari, ecco, il razzismo di Jobbik era più indirizzato verso ebrei e romani, quindi era un anticittadinismo e un antisemitismo tipico della destra ungherese. E, però se voi cercate questo in Edoardo, faticate a trovarlo così in questi termini. E, discorsi contro l'immigrazione io non ne ho trovati. Era sicuramente discorsi contro i musulmani, tantomeno perché faceva parte di una comunità musulmana ungherese. E quando l'ho conosciuto si era avvicinato all'Opus Dei, quindi ecco, era una figura che oscillava, diciamo, ma cercava di prendere... Sarebbe impazzito, però il problema è quando queste persone con problemi psichiatrici, diciamo così, per farla breve, assumono una funzione sociale, cioè ai ragazzini delle medie che mi dicono Hitler era matto, però il problema è che qualche milione di persone l'ha votato, l'ha seguito. Ecco, Edoardo non era Hitler, però era uno che stava a capo di un'organizzazione, era una figura pubblica, capo militare, poi insomma una figura. Quando è andato in Bolivia è stato chiamato per le sue competenze militari, per difendere il dipartimento di Santa Cruz da un imminente possibile attacco delle forze governative contro quelle fazioni di Santa Cruz che volevano maggiore autonomia e, secondo il governo, secessione. Allora, quindi è stato chiamato per le sue competenze. Poi chiaramente anche in Bolivia è stato visto che tendeva ad assumere posizioni di protagonismo un po' eccessive, quindi pare, insomma, nel libro emerge che è stato anche in parte scaricato da una parte della destra di Santa Cruz, che lo riteneva un personaggio poco affidabile probabilmente. Però ecco, io sto procedendo per assaggi. Ecco, la questione delle contraddizioni di genere. Ecco, Edoardo è un personaggio che vive in ambienti militari e è stato considerato da più parti, diciamo, bisessuale. E si tratta di un'omosessualità non gay, che non rivendica dei diritti civili o non rivendica una gioia, cioè una sessualità che non si nomina neanche, che viene taciuta, che vive in ambiti militari, nelle forme della sopraffazione, insomma un tipo di sessualità simile a quella greca, che non si autonominava omosessualità, non si chiamava nemmeno, non c'era la parola per definirsi. Quindi non ha senso poi mettergli un'etichetta di un certo tipo o l'altro. Lui ha avuto probabilmente dei fidanzati, delle fidanzate, non era una questione che diventava discorso pubblico, perché era una cosa che non dicibile in certi ambiti poi sostanzialmente, e quindi non è sostanziale perché non diventa tema politico per lui. E invece esiste in lui l'aspetto della comunità maschile che si struttura in base a un criterio militaresco, militarista, e questo c'è, quindi E quindi invece queste contraddizioni che esistono nel vivere quotidiano, che toccano senz'altro e vengono tematizzate dal narratore, non vengono tematizzate da Edoardo. Però, ripeto, lui poteva essere uno che dava l'impressione di essere aperto a tutti. Non era la persona che mostrava, quando l'ho conosciuto, preclusioni. Era uno che poteva parlare con tutti, che poteva confrontarsi con persone diverse. Però ecco, poi di fatto le scelte politiche sono quelle che dirimono, perché tu puoi essere anche un SA sono fatti tuoi, quelli. Però ecco, nel momento in cui ti esprimi politicamente e sono le tue amicizie, sono le tue alleanze, sono i luoghi in cui assumi un ruolo, che ti definiscono, è quello che fai che ti definiscono, che ti definisce, al di là di quello che puoi dire o puoi spacciare per la tua identità, più o meno. Non so se sono chiaro su questa cosa, perché non è chiaro, è scivolosa la questione. Ecco, no, il libro, io penso questo, che al di là delle... è un libro stratificato, però se voi leggete quel libro e non 10 libri contemporaneamente, dovrebbe essere agevole capire questa compresenza, questa stratificazione, questa complessità. E però, diciamo, a me in fin dei conti interessava fino a un certo punto avere l'ultima parola su quest'uomo. Mi interessava però attraverso Edoardo Rosa Flores poter riflettere su una parte della storia degli ultimi decenni e su le contraddizioni che ci riguardano, in cui noi viviamo, al di là di quello che era o voleva apparire Edoardo Rosa Flores, perché io direi che una persona può essere definita per quello che fa, al di là di tutto, quindi quello sarebbe anche abbastanza semplice dal mio punto di vista. Solo che diventa un problema vedere come si gioca nella storia un personaggio con una personalità del genere, una figura del genere. Ci sono persone ambigue che sono utili in certi momenti storici. Non so, c'è Don DeLillo in Libra scrive di un personaggio ambiguo, che è uno di coloro che contribuisce a uccidere Kennedy, non è l'unico, però contribuisce. Però diventa significativo all'interno di un contesto. Ecco, Edoardo Rosa Flores è senz'altro una persona che ha agito in più ambiti e permette di vedere altro, di vedere la storia e la società in cui noi, i diversi noi che possiamo dire, ci troviamo nel presente, in un presente che va da, diciamo, dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, sì. Sostanzialmente. Prima di vedere se c'è appunto qualcuno di quelli che ha già letto il libro che vuole, insomma, dire qualcosa, fare una domanda, eccetera, faccio un'ultima osservazione io. Riprendendo il libro in mano dopo, appunto, dopo il lavoro che è stato fatto sopra, e che, insomma, io ho letto diverse stesure chiaramente, no? E poi l'ho riletto quando è uscito tra due copertine e l'ho ripreso in mano e l'ho riletto a campione nei giorni scorsi per questa presentazione, e c'è un elemento che ogni volta che torno a questo libro, quell'elemento si fa più forte. Perché io conosco molte delle persone nominate, fin dalle primissime pagine vengono nominate, cioè, mie amiche, compagne di collettivi universitari, ci sono le contestazioni al nonno centenario, che furono un prodromo di quella che due anni dopo è stata la Pantera, c'è la Pantera stessa, c'è l'ufficio stampa di Lettera Occupata, in cui ho passato, insomma, svariate nottate, c'è il narratore Alberto che fa le cose che facevo io anche, cioè telefonare di notte ad altre facoltà occupate, fare scherzi telefonici, queste cose qui, c'è, viene evocato un compagno dalla voce stridula che so benissimo chi è, C'è il poi, finisce la Pantera, c'è il 36 di via Zamboni, c'è la, appunto la sala studio occupata, ci sono degli scontri per l'11 marzo, per l'anniversario dello Russo, c'è tanto di Bologna, c'è tanto di noi, in un senso più stavolta diverso, c'è tanta storia del conflitto sociale a Bologna negli ultimi decenni, che non è la linea portante, ma che è importante perché serve a fare quella distinzione che dicevo prima tra lotta e guerra. Cioè, da una parte c'è appunto il mondo militare e paramilitare, etnonazionalista e avventuriero di Eduardo, e dall'altra c'è tutto questo che ho appena detto. Questa cosa è molto forte. Un personaggio secondario ma fondamentale nel libro è Daniele, appunto, che è quello che insieme ad Alberto va a fare l'Interrail in quella fatidica, appunto, in quella fatidica estate in cui appunto Alberto rivede a Budapest Eduardo, e anche io conosco anche Daniele, cioè, e Daniele tra l'altro recensisce libri sulla lettura del Corriere della Sera, e quando ha recensito questo libro ha messo un disclaimer all'inizio: attenzione, questo recensore è un personaggio del libro, quindi l'ha stabilito subito, quindi sappiate, no, che non è che faccio finta che non ci sono, perché poi i dialoghi anche metodologici e filosofici tra il narratore e Daniele sono molto importanti nel libro e ritornano continuamente, in realtà ha un ruolo importante, ed è Daniele Giglioli, appunto. Avremmo voluto averlo qui, poi non poteva, non riusciva a venire. E c'è questa dimensione che è molto forte per chi legge questo libro a Bologna, che faccia parte di quella generazione o di una precedente o di una successiva, comunque trova un sacco di riferimenti. Ci sono le vie di Bologna, c'è la Sala Borsa, c'è la barca, ci sono insomma vari punti e vari luoghi. Quindi non è solo una, non è solo una ricognizione della psiche rossobruna, diciamo così, anche che è una definizione che ho dato parafrasando il sottotitolo del Secco e l'Umido di Jonathan Littell, che era una rapida incursione in territorio fascista, una rapida ricognizione in territorio rossobruno, no? Ma non è solo quello, c'è tanto di Italia, c'è tanto di Bologna, c'è tanto di noi, vasta comunità, appunto c'è addirittura la presentazione del libro di Lorenzo Declic su Giulio Regeni qui al VAG l'anno scorso. Quindi ecco, questo può essere un ulteriore motivo di interesse per chi sta ascoltando, di ritrovare anche un po' di sé e della propria città e della propria storia dentro questo libro. Se qualcuno che l'ha già letto, come ha chiesto prima Luigi, vuole fare domande, o anche chi non l'ha letto ha delle curiosità su questa cosa, vieni, perché siamo in streaming, usiamo sempre il microfono. Allora, intanto volevo dire insomma un paio di osservazioni su quello che avete detto voi. Quindi la questione di genere, io il libro l'ho letto, la questione di genere non me la sono posta proprio, nel senso che mi sembra proprio assolutamente evidente che il mondo di Eduardo sia un mondo maschile, e io lo chiamo autoreferenzialità, cioè, no? È una cosa che conosciamo bene, noi ci meravigliamo, sappiamo che esiste ed è molto diffusa, insomma, quindi, mentre invece, quindi non meraviglia, insomma, che ci sia, diciamo, che quel tipo di mondo, soprattutto nelle sue trasformazioni, no? Sia un mondo di questo tipo. C'è la figura di Luisa, è vero. Io poi che conosco insomma, diciamo, l'autore, un po', chiaramente ci ho visto anche molta tenerezza, insomma, ho visto delle cose molto, come dire, insomma, ho visto questa figura, questo dialogo, è un po' una figura femminile che riporta il narratore al senso di ciò che sta facendo, no? Quindi gli dà un senso oltre alla sua vita, anche alla sua vita quotidiana, familiare, che comunque compare, no? Perché è un aspetto affettivo che nel libro c'è, però anche rispetto al senso di una ricerca e di una come dire, una ricerca che non si rivela assolutamente facile, che porta continuamente a strade che poi sono strade che si rivelano false, anche a momenti dove ci sono dei vicoli ciechi e quindi non si va più avanti. Invece questa figura è un po', forse, diciamo, potremmo dire anche un po' in senso classico, no? È una figura che riporta, invece dà il senso a ciò che si sta facendo, quindi questo è interessante. Poi volevo dire che io, che sono una che legge anche due o tre libri insieme, con questo libro assolutamente è stato impossibile, perché già basta e avanza, ecco, quindi diciamo è molto stratificato, soprattutto hai proprio la sensazione, io ho avuto la sensazione aprendolo che effettivamente ci ho pensato, questo romanzo non è un romanzo, no? Perché tu credi di aver preso un determinato avvio, sei entrato un po' nella storia, ma il narratore continuamente si sforza di straniarti. Quindi è un senso di straniamento continuo, se si accetta il disagio che questo a volte provoca, perché a volte è un disagio che è dovuto anche alla narrazione, non solo all'oggetto della narrazione, a ciò di cui si parla, a volte effettivamente diventa un esercizio continuo, cioè una sfida continua anche andare avanti nella lettura del libro, no? È molto pieno di informazioni, ci sono, è vero, c'è Bologna, c'è la Bologna della Pantera, c'è una, insomma, per me è una cosa molto bella trovare il bug, trovare dei riferimenti anche come quello a Luca Rastello, che io amo molto, insomma molto molto, che è stato qui a Bari 11 anni fa, e quindi ci sono continuamente molti stimoli alla lettura, molti stimoli all'approfondimento. Ci sono tante cose, per esempio, che io magari conoscevo un po', le questioni della Romania, alcune questioni molto oscure della guerra in ex Jugoslavia, anche molto angoscianti, e anche tutta la parte che riguarda la Bolivia, della quale io non sapevo nulla, per cui viene effettivamente voglia di approfondire. C'è un continuo, diciamo, anche passaggio tra la narrazione e la documentazione, per cui ho apprezzato molto anche il fatto che non ci sia fiction nel romanzo, si vede, insomma, si capisce, e quindi questo ti dà anche una tranquillità, insomma, nell'andare avanti e nel voler approfondire. Io mi chiedevo però una cosa, qui arriva la domanda, il titolo, la controfigura, no? Quindi, allora, può essere, diciamo, il personaggio che nel corso di questa, della sua storia diventa la controfigura di se stesso, può essere il narratore che, ricercando, diciamo, la persona che conosceva da giovane, si trova poi davanti sempre qualcosa che è una controfigura, effettivamente, perché un po' perché il personaggio è inafferrabile, no? Non so, mi chiedevo qual è, oppure perché, diciamo, è il messaggio che dà a noi, cioè la controfigura in realtà, quella a cui si trova di fronte invece il lettore. Una cosa sulla questione del genere che dicevi prima, è proprio per una mancanza di interrogazione su questo, sulle contraddizioni che, di classe e legate ai ruoli, ai rapporti tra uomini e donne in questa società, è proprio per mancanza di un'analisi di questo, secondo me, che sia quelli dei rapporti di classe che rapporti di genere, e è proprio per mancanza di questo che una certa fazione, un certo gruppo si sceglie come al posto di una classe di persone che combattono per cambiare la società, una famiglia, un'etnia, un popolo, una cosca, una famiglia da difendere, di interesse da difendere. Proprio questa mancanza di esame su se stessi, sulle proprie contraddizioni, sui propri privilegi, anche limitati, mutevoli, che ci portiamo quasi tutti noi rispetto ad altri, ma che si porta un uomo, ecco, in questa società. Proprio per mancanza di questo, secondo me, c'è una virata dalla, tra virgolette, sinistra al fascismo, al rosso bruno, dove dove il termine popolo non definisce una lotta di classe, non vede le contraddizioni interne al termine popolo, dove le mie condizioni di qualunque, di cittadino, non vede le contraddizioni rispetto a coloro che non hanno nemmeno i diritti di voto, anche se io non voto, mettiamo, ecco. Ecco, dove non c'è questo, c'è uno slittamento, diciamo, dalla classe alla cosca, alla famiglia, all'etnia, alla razza e così via. questo era per quello, quindi allora sulla controfigura, e secondo me alla fine una cosa che c'è questo aspetto diciamo dell'inchiesta, però secondo me verso la fine l'aspetto romanzesco un po' torna, perché si riannodano alcuni fili, il narratore ricorda il momento in cui ha conosciuto Edoardo e parla di sé. Allora, quel parlare di sé io vorrei che non fosse pensato come un parlare di sé della persona che vedete qua di fronte, anche se certo io sono coinvolto, ero lì io che scrivevo, però io ho cercato nella finzione, cioè, i rapporti familiari del narratore, lì c'è l'elemento di finzione, perché anche se lavoro su la vita mia e di altre persone che conosco, c'è comunque un plasmare, la materia, un scegliere, non mettiamo tutto, scegliamo, nel momento in cui io scelgo, monto, scrivo una cosa invece che un'altra, già c'è un elemento di finzione, quindi c'è finzione in ogni biografia, anche in quella che si pretende più veritiera. E quindi ecco, il narratore, dove c'è il narratore, la moglie, gli amici, c'è un elemento di finzione, i dialoghi tra il narratore e Giglioli, c'è un aspetto di finzione. Quindi ecco, questo è l'aspetto romanzesco che però vorrebbe essere un romanzesco amico della verità, come dire, verità c'è la menzogna romanzesca, ma c'è in un certo senso la verità romanzesca. La verità romanzesca sta nel lavorare su più livelli, nel permettere l'incontro di più punti di vista. Questo è possibile in un romanzo, in un'inchiesta, in un trattato, non è possibile far entrare nella storia l'errore, far entrare nella storia l'autoinganno, far entrare nella storia i problemi di ricezione, io non so l'ungherese, tutte queste cose fanno parte della ricerca, ma non ci sarebbero nella ricerca se la ricerca fosse solo una ricerca, non ci sarebbe il narratore che deve portare i bambini al parco, non ci sarebbe il narratore che si interroga, non ci sarebbe il narratore che si fa domande su se stesso. E quindi ecco, l'elemento romanzesco sta nello stratificarsi dei livelli e nell'incrocio, nello scontro, nell'attrito di più punti di vista, che sono i punti di vista di persone che io, Luigi, ho intervistato, ma anche punti di vista di persone, personaggi che stanno nella storia. Controfigura, perché controfigura? Io ho scelto questo titolo perché è ambiguo, questo ed evocativo. Controfigura richiama l'idea della recitazione, l'idea di qualcuno che sostituisce qualcun altro nelle scene pericolose, qualcuno che assolve un compito al posto di qualcun altro, qualcuno che si fa male al posto di qualcun altro, qualcuno che assomiglia a qualcun altro. Poi, perché controfigura è anche un termine che, oltre a richiamare l'idea della recitazione, che è nella sostanza di questo protagonista, di Edoardo Rosa Flores, controfigura contiene il termine contro e il termine figura. Due termini a cui vorrei lasciare l'ambiguità, perché contro dà l'idea comunque di contrasto, di tante cose. E figura è un termine che troviamo nella storia della letteratura, di studiosi di Dante come Auerbach, quindi è un termine che si porta dietro molti significati, e quindi dicendo che c'è un richiamo alla recitazione, alla finzione, lascerei comunque ambiguo il resto, e lascerei. Però ecco, figura è anche, il termine figura in tanti termini, è anche ciò che noi mostriamo, ciò che noi plasmiamo, ciò che noi, insomma. Anche la fare bella o brutta figura. Ecco, questa cosa, ecco, il termine figura mi piaceva perché, tra l'altro, il personaggio, il narratore, all'inizio conoscendo Edoardo, è continuamente convinto di fare brutta figura, di non essere adeguato. Edoardo è uno che sa tante lingue, che entra in ogni luogo, che conosce tutti, che sa, che fa. E lui, il narratore, è un po' più a disagio, non ha la tesserina per entrare in ogni luogo, non ha... E invece Edoardo, vedete, se leggete, vedete che in Ungheria si trova a suo agio ovunque, sembra uno che può entrare ovunque. E, quindi figure contro figure dà l'idea comunque dell'opposizione, del conflitto e anche tante idee che sono legate insomma, tra di loro, che formano una costellazione di significati che non spiegherei fino in fondo. Sì. Sì, aggiungo una cosina brevissima, poi ti su questa cosa del fare brutta figura. In realtà è fondamentale nel libro perché il narratore è continuamente convinto di aver fatto brutta figura, di aver sbagliato a scrivere quella cosa nella mail che ha mandato, di aver fatto la domanda sbagliata, di aver fatto la gaffe. È quasi connaturato il suo metodo di fare inchiesta, questa insicurezza, questo continuo chiedersi se non gli sto rompendo i coglioni. Perché parla della vita di altre persone, non solo di Edoardo, anche per esempio della sorella che è poveretta, a un certo punto vivendo, essendo tornata a Santa Cruz della Sierra, ha cambiato completamente la propria vita dopo che il fratello è stato ucciso. Esatto, quindi c'è sempre questa cosa fin dove posso spingermi nel fare domande alla sorella, no? Perché il narratore, come ha fatto poi Luigi, manda delle mail alla sorella di Edoardo, gli fa delle domande. È uno stalker. È uno stalker, praticamente il suo modo di fare inchieste è rompere il cazzo alla gente e se non ti risponde la prima mail ne mandi la seconda, poi la terza, poi la quarta. A distanza di mesi magari. A distanza di mesi, sì. Sì, non tutti lo stesso giorno. Sì. Non tutti lo stesso giorno, chiaramente, però cioè, è un appostamento che dura anche a lungo nei confronti di una persona, perché sente di avere impellente questa cosa, di vederci chiaro in questa storia di Edoardo. Però appunto, mentre lo fa si chiede, ma non è che sto sbagliando, ma non è che sto esagerando, ma non è che sto pressando troppo, ma non è che gli sto rompendo i coglioni, ma forse ho sbagliato quella frase, forse l'ha interpretata male. E però questo stranamente diventa parte del metodo, cioè proprio l'inchiesta si arricchisce grazie a questo e anche la scrittura. Antonello? Io avevo una curiosità, non tanto sul personaggio che per alcuni versi mi ricorda uno forse più famoso che Limonov, come per alcuni percorsi contraddittori, diciamo. Questo è anche più schizzato. Sì, questo è anche più schizzato perché sicuramente forse Limonov dal punto di vista letterario vale decisamente di più, certo. Almeno per quello che ho letto. Sì. No, mi incuriosisce se tu hai anche... ti sei interrogato nel sezionare le varie tappe di questo personaggio su una conseguenza del disfacimento di tutta l'area sovietica, perché a me è capitato magari di intravedere percorsi non molto dissimili, meno eclatanti come scelte, ma non molto dissimili. E anche leggendo alcuni romanzi, per esempio ne ho letto uno ultimamente, non mi ricordo l'autore, mi ricordo il titolo, Eravamo dei grandissimi, che racconta la storia di alcuni ragazzi che vivevano a Lipsia e che hanno delle contraddizioni che sono quasi la negazione di quel mondo che praticamente uno si aspetterebbe di vedere dopo. La storia recente ci dimostra comunque che dentro quel mondo si allinea comunque qualcosa che dal punto di vista storico, perlomeno almeno una lettura superficiale, lascia molto stupefatti, no? Quello che sta avvenendo, quello che avviene in Ungheria, quello che avviene in Polonia, quello che avviene comunque anche nella Russia odierna. Ecco, se la curiosità del personaggio, oltre alla conoscenza, ti ha posto anche una riflessione di questo genere, se quel mondo che è diventato anche un fautore di comportamenti così schizoidi dal punto di vista almeno politico, nel leggerli nella maniera più superficiale possibile, ecco, non voglio inserirmi in analisi storiche più complicate. Grazie. Sì, alcune somiglianze ci sono tra Edoardo Rosa Flores e Limonov. Limonov nei Balcani ha combattuto con i serbi, come sapete, invece Edoardo Rosa Flores con i croati. Ed è arrivato al grado di colonnello combattendo, poi in pensione pare che abbia avuto, però questa, su questo non ho più confermo, solo una fonte, è arrivato al grado di generale. Ho un po' chiesto, insomma, su questo non, chiudo parentesi, se vi interessa posso approfondire. Però Limonov ha scritto dei libri tradotti nel mondo, mentre Edoardo Rosa Flores resta confinato in ambiti molto limitati. Poi Limonov mette in piazza alcuni aspetti della sua vita, Edoardo Rosa Flores tende a dissimulare e a non dire, anche perché c'è un aspetto sadico che non può essere detto. Nel momento della guerra, il maltrattare, il picchiare, il interrogare, non è una cosa che tu puoi raccontare senza poi incorrere, senza poi poter riciclarti in un certo modo. Arriva il momento della resa dei conti, possono processarti per quello. E Edoardo Rosa Flores era uno che, al contrario di Limonov, sparava sul serio e uccideva, senz'altro, ed è stato accusato di aver ucciso un paio di persone, lui e i suoi uomini. Mentre Limonov, se è vero quello che racconta Carrer, si mette in posa per sparare, insomma, adesso. Quindi, poi, il disfacimento dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia è significativo per capire questo personaggio. Infatti, all'inizio, già dal primo racconto che ho scritto e pubblicato su Carmilla, il narratore si poneva questo problema, diceva lui, questo uomo vuole mantenere uno status, vuole riciclarsi, nel momento del disfacimento di quella società, del socialismo reale, vuole restare, avere un ruolo, vuole essere qualcuno. Era un giovane comunista ungherese, rappresentante dell'università Elte di Budapest, con possibilità di fare carriera all'interno del partito, non è più possibile, può riciclarsi come giornalista. Lui nei Balcani va a fare il giornalista per conto dell'Avanguardia, del giornale di Barcellona, e per BBC versione spagnola. Quindi scrive articoli per l'Avanguardia, li trovate nel sito dell'Avanguardia, i suoi articoli, i suoi reportage. E poi collaborava alla BBC versione spagnola. Poi che cosa fa? Fa il militare, fa tante cose. E quindi c'è questo aspetto, il disfacimento pone dei problemi di carriere interrotte. Cosa fa un Putin che Putin è riuscito a riciclarsi bene, l'ha imbroccata. Altri burocrati sono diventati uomini d'affari, altri hanno fatto carriera all'interno di partiti, di un certo, magari alcuni partiti più o meno socialdemocratici, vagamente socialdemocratici, oppure partiti più di destra. Edoardo si avvicina a formazione di destra. Quindi sì, cioè, questo c'è nel libro, perché è qualcosa che viene fuori da quello che dice Edoardo, che retrospettivamente condanna il socialismo reale, cosa che faceva già in parte prima, però ecco, prima era ambigua la sua posizione, giocava su più tavoli appunto, perché e voleva, cosa voleva fare Edoardo? Cosa diceva quando io e Daniele siamo andati a Budapest? dava l'impressione, senza voler fare riferimenti al libro, così lo trovate, dava l'impressione di volere gestire la transizione, di essere uno di quelli che gestisce la transizione, ma non è possibile per lui e quindi deve scegliersi altri ruoli. E in una delle tante telefonate fatte nelle occupazioni dell'università, io telefonai a Edoardo Rosa Flores, gli chiesi come andranno le lezioni in Ungheria, e lui disse andranno male. E quindi lui già sapeva che sarebbe andata male per il suo partito, quindi lui già pensava a quello che avrebbe potuto fare dopo. E la prima cosa che fa prima di andare nei Balcani è andare in Albania. Ed è in Albania che uno dei personaggi del libro, un giornalista, fotografo che esiste, Franz Gustincic, è lì in Albania che Franz Gustincic conosce Eduardo. C'è la testimonianza di Franz Gustincic, perché Franz Gustincic, che trovate in un sito, è stato minacciato di morte da Eduardo Rosa Flores. Ora, se questo è quello che ci racconta Franz Gustincic, e nel libro c'è, io poi chiaramente mi trovo a una realtà composita, stratificata, però ecco, nel momento in cui, perché non ho fatto la fiction da sceneggiato televisivo? Perché i livelli di realtà, secondo me, sono abbastanza esplicitati. Cioè, il livello di credulità, il livello di affidabilità delle fonti, secondo me, è abbastanza dichiarato. L'unica cosa, ecco, l'unica parte in cui c'è un aspetto di fiction, l'ho denunciato, dicevo, in uno scritto, e ho raccontato una cosa non vera in quel punto, non nei primi capitoli, che però è meno, diciamo, strana di quello che mi è successo nella realtà, perché io credo, però a questo punto dubito di me stesso di aver incontrato Eduardo a Bologna casualmente. Non ho voluto inserire questo fatto nel libro, perché non avevo delle possibilità di dimostrarlo in un certo modo, non avevo nessuna seconda voce che mi potesse, cioè l'ho incontrato senza parlargli, l'ho visto, e so che non volevo inserire questo elemento che rischiava di essere un elemento di involontaria finzione. Ma secondo te lui ti ha riconosciuto se era lì? Secondo me sì. Ha fatto finta di niente? Sì, secondo me sì. Questa cosa si trova in un racconto che ho messo, che è stato caricato sul sito. Il titolo, e il racconto si intitola Memorie divise, però consiglio di non leggerlo contemporaneamente al libro. O lo leggete prima o dopo, non contemporaneamente, se no vi complicate la vita in modo eccessivo. Ecco, Memorie divise parla proprio del problema della memoria. Io quando ricordo una cosa vera, quanto è vero ciò che ricordo? È un problema epistemologico, scusate la parola, per me, perché è un problema. Perché comunque, questo non significa che quello che noi ricordiamo male sia falso. Ci sono al mondo vittime che raccontano in modo impreciso del loro villaggio bruciato, di cataste di cadaveri. Non è che il loro racconto è falso perché sono imprecisi. Esiste la violenza, esiste il trauma, esiste la difficoltà di raccontare. Esiste la difficoltà di raccontare. La rimozione esiste. E esiste però anche la menzogna di guerra, l'uso della menzogna di guerra. Quindi sono territori complicati. E per fare riferimento a Daniele, personaggio del libro, Daniele ha scritto Critica della vittima. E solo che Daniele sa che esistono le vittime, il problema è che il vittimismo dei forti, il vittimismo dei potenti, il vittimismo di chi magari, ecco, per fare riferimento alla legge adesso, vuole il cosiddetto affidamento condiviso, quando questo significa una pressione, una forme di reiterata violenza verso il coniuge, verso le donne. Quindi c'è il vittimismo del più forte, c'è quello che dice io sono stato defraudato del mio impero. Ecco, dopo la caduta dell'impero austro-ungarico, il nazionalismo ungherese si nutre di quella sconfitta. Insomma, la guerra l'hanno fatta, cioè non è che ci sarà una cosa. C'è chi vince, c'è chi perde nelle guerre. Dopo le guerre c'è chi perde dei territori. È una logica che vorremmo superare, perché vorremmo superare magari i confini tra gli stati, però esiste e quindi esiste il vittimismo del confine italiano orientale, esiste il vittimismo dei razzisti nazionalisti ungheresi, quindi il problema, la memoria è un problema, è un problema ricordare e rendere conto anche della difficoltà del ricordare. E il libro tematizza anche questo. Secondo me non è un libro così complicato, comunque, ve lo dico, secondo me lo potete leggere tranquillamente. L'ha letto delle persone che non hanno che hanno un livello di, diciamo, di scolarizzazione molto inferiore alla maggior parte delle persone che stanno qua dentro. Solo che erano motivati a leggere, voglio dire, l'hanno letto persone che hanno fatto la scuola quadri di partito del PC e che hanno la terza media, ci sono persone che hanno un'altra scolarizzazione, però, o persone che non necessariamente hanno studiato lettere, non è un libro per studenti di lettere laureati in lettere, è un libro, secondo me, volendo, anche accessibile. Io lo penso di, se no non l'avrei scritto. È un libro, è vero, impegnativo, perché è un libro abbastanza lungo. Un mio amico aveva nella prima stesura era più lungo, sono contento di aver tagliato, per esempio ho tagliato un riferimento ad Odi Maracino nel momento in cui abbiamo intitolato una rotonda, ho detto dal momento che c'è la rotonda intitolata ad Odi Maracino non importa, e quindi lo posso tagliare a cuor leggero. Però durante non lo dicevi che eri contento. E perché nelle vertenze sindacali bisogna tirare. E posso dire però questa cosa, che molte persone mi hanno detto mi è piaciuto molto quella parte del libro, ed erano parti che rischiavano a volte di essere tagliate, e io sono molto contento di avere tagliato altre parti e di aver difeso quelle, e quindi sono molto contento e molto grato verso la casa editrice, tutti quelli che ci lavorano, come qui presente Pietro De Vivo, e sono molto grato a Roberto Bui, che, come dico nella dedica, ha aperto il varco e ha creduto nel quello che avevo scritto su Carmilla, e Adriano Masci e tanti altri con cui ho interloquito, che mi hanno fatto molto arrabbiare, perché chiaramente Adriano Masci, dovendo vivere, mi rispondeva dopo magari qualche tempo, diciamo così, quindi io vivevo un po' l'angoscia di questo, però ecco, alla fine io sono molto contento di quello che è venuto fuori, e mi auguro che, se non avete voglia di leggerlo, perlomeno lo sfogliate e vediate se vi interessa. Se vi interessa. Perché è molto prescrittivo, mentre lo leggete non dovete leggere altri libri, mentre lo leggete non dovete leggere il racconto che c'è online. No, non sono prescrittivo, voi potete fare quello che volete, dico solo che diventa più difficile, e quindi ci vuole un lettore che non ha l'abbiocco serale, quindi che lavora meno di giorno. Io conosco Luigi da 28 anni, l'ho conosciuto a Lettere Occupate. No, posso dire come ho conosciuto la persona che presenta? Però lui all'epoca si firmava nelle comunicazioni interne alla Pantera il pedante illuminato. Ecco. Era perché si correggevano i volantini, c'era un volantino che scriveva delle cose, allora il pedante illuminato scriveva che il volantino era sbagliato per questo. Allora, correggevi i refusi sui da Zebao, queste cose. Allora, sì. Invece vi dico come ho conosciuto Roberto Bui. Roberto, io ero con dei compagni di collettivo, li siamo, a raccogliere delle firme per organizzare una manifestazione che si sarebbe poi tenuta il 6 dicembre dell'89, quindi del prima della Pantera. E Roberto, secondo lui, si è avvicinato e ha detto, c'era la musica accesa, non sono d'accordo con i vostri gusti musicali. Queste sono state le prime parole che ha detto lui, avvicinandosi al bar. Noi avevamo messo la musica a caso. A cazzo. Ecco, era la radio, visto che si aveva messo la prima musica che guitava, e lui è intervenuto dicendo non sono d'accordo con i vostri gusti Se volete musicali. Che lotti con voi, dovete ascoltare altro. Era giusto. Quindi capite che ci accomuna questo... Sì, sì. Come possiamo definire? Un po' di pedanteria. Dai. Grazie a tutti e a tutti. Grazie. Se avete voglia di chiacchierare, io chiacchierò volentieri. Così. Thank you.